E basta, basta! Veramente basta, veramente basta! Questo è un inferno! Qua si mangia pane e veleno! No, Pasqua, solo veleno! Veramente si mangia pane e veleno! Pasqua, te l'ho già detto un'altra volta, qua si mangia solo veleno! Già passato, invano cerco di fermare il tempo, semino paura, raccolgo fallimento, le due lancette suonano come bombe, picchiano come pugni, sangue sui sogni infranti e pace ai morti, la vita non concede il giorno degli sconti, guardo lo specchio, vedo uno spettro, poi mi ritrovo a fare a pugni con l'ombra di me stesso, e poi di colpo arrivano quei momenti in cui la vita ti costringe ad andare avanti, a tutti i costi, aggrappandoti ai ricordi. Con le unghie e con i denti, la paura di morire è la scusa di chi non sa vivere, nella lotta contro se stessi, il fine giustifica i mezzi, meglio mille rimorsi che un solo rimpianto, meglio mille rimorsi che un solo rimpianto, scegli quel che vuoi, perché sai non si sa mai, io fra di quel che sono ciò che sei, scegli quel che vuoi, perché sai non si sa mai, io fra i dei, e quel che sono ciò che sei, la terra, la morte, il cielo, la vita, il pianto, il fratello, il nero, l'uscita, la guerra, l'umano, la pace, l'alieno, il buio, l'antidoto, la luce, il veleno, il falso, l'odio, il vero, l'amore, il vuoto, l'infamia, il pieno, l'onore, il passato, grazie a Dio, io non ho nessun Dio, non prego Sant'Antonio e nemmeno Padre Pio, io prego per un mondo disilluso, che a forza di far finta di niente è diventato sordo muto, io, tu, lui, noi, voi, come carcasse nel deserto, aspettiamo gli avvoltoi, guardiamo specchi, vediamo spettri, ci ritroviamo a fare a pugni, con l'ombra di noi stessi, e poi di colpo arrivano quei momenti, in cui la vita si costringe ad andare avanti, a tutti i costi, aggrappandoci ai ricordi, con le unghie e con i denti, la paura di morire è la scusa di chi non sa vivere, nella lotta contro se stessi, il fine giustifica i mezzi, meglio mille rimorsi che un solo rimpianto, meglio mille rimorsi che un solo rimpianto. Sei comunista, cosa sei? Niente. Niente? Mi disgusta ogni forma di governo. Qualcuno deve governare. Mi disgusta la parola governare. Beh, invece di governare, diciamo pure guidare. Il governo è guidato dal potere politico e il potere politico è una forma d'oppressione sul popolo. Di quale giornale fa l'editore? Un notiziario contemporaneo. Scusatemi. Ma... mio caro giovanotto, la politica è necessaria. È un insieme di leggi imposte con la forza. In America le leggi non sono imposte, ma volute dai liberi cittadini. Fatevi un giretto e vedrete quanto sono liberi. Non mi hai lasciato finire. Sono tutti irregimentati e senza passaporto non li lasciano muovere un dito. Vorrei dire soltanto... E in un mondo libero sono violati i diritti elementari del cittadino. Se non mi lasci... Siamo divenuti strumenti in mano ai politicanti. Ascolta, caro... E se non la pensate come loro, vi tolgono il passaporto. Vuoi permettere che lasciare io... il paese è un'impresa difficile. Sì, per entrarci è come passare per la cruna d'un ago. Ma se... Sono libero di viaggiare? Certo che sei libero di viaggiare. Solo col passaporto. Posso dire una parola? Solo col passaporto. Senti, caro... Gli animali hanno passaporto? Hai finito? È assurdo che nell'era atomica della velocità si resti bloccati dentro e fuori dal passaporto. Se chiudi il becco potrai parlare anch'io. Esiste forse la libertà di parola? L'hai presa tutta tu. E l'iniziativa privata? Parlavamo di passaporti. Oggi tutto è monopolio. D'accordo. Ora io posso vorrei... Posso mettermi a costruire automobili in concorrenza coi grandi tre? Se potessi dire una parola... Manco per sogno! E mettermi negli alimentari in concorrenza con le drogherie a catena? Vuoi tacere o no? Manco per sogno! I monopoli schiacciano l'iniziativa privata! Esattamente come 60 anni fa! Ma dove eri tu 60 anni fa? Rompeva i timpani agli angioletti! Finalmente! Hai finito? Ora parlo io! Lascia che ti spieghi quanto ti sbagli! In primo luogo, adesso non so più cosa volevo dire. E la bomba atomica? Ah! È un delitto quando il mondo chiede energia atomica. Sì. Che i grandi stati fabbrichino le bombe. Ma io sono contro le bombe atomiche. Volete spazzar via la civiltà, distruggere la vita sulla Terra. Siete tutti arretrati di un secolo. Io ci ho perso il trono per essere contro le bombe. Come se le bombe atomiche risolvessero i vostri problemi. Ascolta, marmocchietto. Oggi l'uomo ha troppo potere. L'impero romano declinò dopo l'assassinio di Cesare. E perché? Per eccesso di potere. Il feudalesimo sfociò nella rivoluzione francese. E perché? Per eccesso di potere. E oggi il mondo finirà per esplodere. E perché? Per eccesso di potere. E il monopolio del potere è una minaccia alla libertà. Umilia e degrada ogni individuo. Dov'è l'individuo oggi? Io non lo so. Smarrito nella paura, spronato all'odio anziché all'amore. Se vogliamo difendere la civiltà, distruggiamo il potere affinché giustizia e pace ritornino sulla terra. Già, nascondi in fondo al cuore la tua diversità, che il lupo cattivo vegli su di te insieme a tutti gli animali che sono tali e quali a te. Nella periferia si sveglia. dicevi sul serio? Ogni singola parola. Tu pensi che far saltare in aria il Parlamento renderà migliore questo paese? Non vi sono certezze, solo opportunità. Beh, puoi essere certo che Creedy incappuccerà chiunque si presenti, dal primo all'ultimo. I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. E tu fare in modo che questo accada facendo esplodere un palazzo? Il palazzo è un simbolo, come lo è l'atto di distruggerlo. Sono gli uomini che conferiscono poteri ai simboli. Da solo un simbolo è privo di significato, ma con un bel numero di persone alle spalle far saltare un palazzo può cambiare il mondo. Vorrei tanto che fosse possibile. Ma ogni volta che ho visto cambiare questo mondo è sempre stato in peggio. Battagliero, un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla. Battagliero, uno sguardo ardito e fiero che rincorre l'aldilà. Non lo salverà dal cielo il fucile mitragliero, né un manipolo guerriero lo potrà resuscitare. Corre in cielo, corre in cielo, oh, oh battagliero. Battagliero, un concorso al ministero segna la maturità. Battagliero, rispettoso lusinghiero il giudizio che si dà. Non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, disinvolto faccendiero del potere che verrà. Apprendista dell'impero, oh, oh battagliero. Cantare voglio la valle resistente, che molto ha dato e non ha chiesto niente. I monti, il fiume, la gente che lavora, e nonostante tutto eccola ancora, unita nel dir no a questa furia, che trapana la terra ed è un'ingiuria. Difesa da milizie prezzolate, tolte da oriente e in valle trasportate, col sorriso sprezzante di chi crede d'aver sempre ragione, più non vede che a fronte c'è la vita, c'è la storia, c'è l'umile onestà dei senza boria. Canto chi non s'arrende e nella lotta del quotidiano vivere alla rotta, così che la milizia dei venduti ai mafiosi e ai politici fottuti più non comprende, compressa nella gogna dietro al reticolato di vergogna. Ma nella valle il vento soffia ancora e l'acqua scorre veloce nella dora. La lotta sarà dura ed è per tutti, per quelli che non vogliono dei lutti, ma libera montagna verde e fiera che ci abbraccia di fiori in primavera. Dire sì a un unico singolo istante equivale a dire sì all'intera esistenza. We'll be right back. I help you? Hello. Yeah? We are a French group. We just have playing in this club. Ah, you're that shitty rock band that played in my club? Yes. Do you know where is the boss of the club? No, sorry. Can you call him, please? No way. No, you don't want. Right, so why don't you go and fuck yourself then? Because, we need our cash back. Hi, everybody in this club! Alright, thank you, everybody. Where is your fucking boss of the nightclub? You son of a bitch. You have to pay. We need our cash back. You son of a bitch. You have to pay. We need our cash back. And you son of a bitch. You have to pay. We need our cash back. Chili club, last chance for me and my